Vita del Venerabile Francesco Antonio Marcucci. Francesco Antonio Marcucci nacque a Force, un paese in provincia di Ascoli Piceno, il 27 novembre 1717. Il papà, l'avvocato Leopoldo, apparteneva ad una nobile e religiosa famiglia di Ascoli, mentre la mamma, Giovanna Battista Gigli, era di umili origini e proveniva da Iesi, in provincia di Ancona. Il nostro futuro venerabile crebbe serenamente, circondato dall'affetto di tutti i suoi cari, specialmente della zia Francesca, che non aveva figli, quindi aveva un trasporto particolare verso questo nipotino che amava moltissimo. Ma già da piccolo il nostro futuro venerabile rischiò la vita, seriamente. Infatti aveva pochi anni quando, per un motivo banalissimo, ingoiò un ago con il filo. Sputava sangue. I medici, dopo vari tentativi di salvarlo, si dichiararono impotenti. I familiari però non si persero d'animo, erano devotissimi a Sant'Antonio e a lui fecero un voto. Il bambino portava oltretutto anche il nome di Antonio, e chiedendo a lui, proprio a Sant'Antonio, questa guarigione, questa grande grazia, e Sant'Antonio la concesse perché il bambino guarì. E arriviamo così all'estate, a quella l'estate di quell'anno, come era allora consuetudine tra i nobili di Ascoli, i Marcucci si trasferirono in campagna e fra le varie proprietà scelsero quella di Ancarano, sempre in provincia di Ascoli Piceno. Qui successe qualcosa di particolare, perché Francesco Antonio, sebbene avesse 5 anni, ascoltò per la prima volta la predica di un santo missionario, era padre Giovanni Scaramelli, e questa predica, pur essendo lui molto piccolino, lo colpì profondamente. Alcuni anni dopo ricevette anche il sacramento della cresima, della prima comunione, e iniziò nel frattempo gli studi con un precettore privato. E qui, nonostante la severità del maestro, il suo carattere aperto, l'intelligenza vivace, gli permisero di fare progressi lusinghieri, ma oltre che lo studio, dobbiamo dire che soprattutto i familiari lo educarono ad una fede profonda, ad una fede soda, in modo particolare alla preghiera, una preghiera vera, alla frequenza ai santi sacramenti. Il papà, fin dalla tenera età, gli inculcò l'amore per l'Immacolata Concezione. E questo fu un amore per lui che porterà avanti per tutta la vita, come vedremo, e sarà quasi una stella luminosa, quasi, sarà una stella luminosa per lui in questo cammino di fondatore e anche di santità. Ma, come succede spesso, le prove arrivano, e arrivano anche in modo grande, enorme. Successe che lui aveva appena 13 anni, 13 anni e mezzo, e la mamma aveva 37 anni, la mamma era Giovanna Battista Gigli, la mamma morì. Potete immaginare lo sconforto e lo sconcerto di questa mancanza della mamma, che oltretutto era giovane, aveva 37 anni. Fu un dolore enorme e una profonda riflessione portò a tutta la famiglia, insomma, a chiedersi perché. La zia Francesca intanto intensificò ancora di più le sue premure verso il nipote, ma solo l'amore alla Vergine Santa, di cui Francesco Antonio sperimentava una concreta protezione, riuscì a colmare in buona parte il vuoto lasciato dalla madre che amava tantissimo. E arriviamo così, dopo alcuni anni, al Carnevale del 1735. In questo carnevale, in questi giorni, ci fu una svolta definitiva nella vita del nostro apostolo. Proprio in quei giorni si era divertito più del solito con i compagni, ma la sera, nel silenzio della sua camera, sentì un grande vuoto, una tristezza enorme nel cuore. Ebbe la chiara sensazione, questo lo sorprese moltissimo, che stesse sprecando la vita. Ci fu una profonda riflessione nel cuore, iniziò da lì, da quella sera, questo probabilmente era un richiamo che la Madonna gli faceva, un invito forte a un diverso cammino, iniziò da quella sera, dicevamo, il suo meraviglioso cammino verso Dio e verso la santità. E lui attribuì sempre questa grazia all'intercessione di Maria Santissima, e pensate, per ringraziarla, il 25 dello stesso anno, con il permesso del suo direttore spirituale, fece voto di castità perpetua. Fu una scelta coraggiosa, di grande generosità, ma questa scelta cancellava anche tutti i progetti che i familiari riponevano su di lui. Infatti lui era l'unico erede di questa nobile famiglia. Questo cammino proprio più profondo, un cammino di grande spiritualità, lo portò a sentire nel cuore l'invito di Gesù: vieni e seguimi. Nel settembre di quello stesso anno, pensate, aveva 18 anni, si recò a piedi con alcuni compagni a Loreto, al santuario della Madonna di Loreto, e affidò alla Vergine Santissima questa decisione di incamminarsi verso il sacerdozio, per essere totalmente di Dio. E questa risposta al Signore, così pronta, così generosa, era stata, non era casuale ovviamente, dicevamo, ma era stata preparata anche da molti mesi di preghiera. Ma dobbiamo anche dire che questa preghiera coltivava quello che era stato l'esempio e l'insegnamento nei tanti anni dei suoi familiari, sia del papà che della mamma che dei suoi cari. Eppure pensate, sembra paradossale. Essi, i familiari, soffrirono molto a dargli il consenso per diventare sacerdote, perché, dicevamo, era l'unico erede di questa nobile famiglia, l'unico figlio maschio, e quindi si sarebbe, diciamo, fermata lì questa casata. Ma la zia Francesca lo aiutò ad ottenere il sospirato permesso dal papà, e lui iniziò a prepararsi con grandissima cura al ministero sacerdotale, coltivando una vita anche di sacrificio, di penitenza, di affidamento al Signore, ma anche a dei santi sacerdoti. E anche i nuovi studi che lo entusiasmarono, i nuovi studi dei misteri della fede, dei padri della Chiesa che lui scoprì, e anche della Bibbia, gli aprirono nuovi orizzonti di luce. Avvertì in lui il desiderio, proprio l'urgenza, di trasmettere agli altri quella verità che a lui donavano una forza nuova e anche tanta consolazione. Allora questo desiderio di trasmettere agli altri lo portò a chiedere al vescovo della città il permesso addirittura di predicare ai fedeli della sua parrocchia, ma anche di altre chiese della città di Ascoli. Ricordiamo che non era un sacerdote, oltretutto aveva 18-19 anni. Il popolo lo ascoltava ammirato, entusiasta, era diverso dagli altri perché parlava con quel calore nel cuore, parlava all'anima. E sembrava che la Madonna lo guidasse, probabilmente, cari amici, era così, perché dopo la morte della mamma, questo suo amore alla Madonna lo concretizzò anche con lo studio alla devozione proprio a Maria Santissima. Per esempio seguì nel convento dei padri francescani nella città le lezioni di Mariologia tenute da padre Lorenzo Ganganelli, ma perché lo dico? Perché poi padre Ganganelli diventerà il futuro Papa Clemente XIV. E qui Francesco Antonio Marcucci iniziò anche a scrivere componimenti in onore di Maria. Tra questi ricordo una delle più belle, sono Agli amanti di Maria, quindi un trattato scritto per aiutare tutti quelli che come lui amavano la Madonna, per onorarla, per imitarla, attraverso l'esercizio delle sette virtù che lui vedeva risplendere in Maria. No? Sappiamo che la devozione vera, verso un santo si riflette soprattutto quando noi mettiamo in pratica le virtù di questo santo. E lui in Maria vedeva soprattutto queste virtù. Ve le spiego, le diceva: la virtù della pazienza, dell'obbedienza, della castità, dell'umiltà, della carità, della modestia e della povertà. E quest'opera è proprio l'espressione della sua sorprendente sia maturità umana ma anche spirituale, raggiunta da lui in questi pochi anni. E lui si impegnava a trasmettere proprio agli altri, ai fratelli, ciò che stava lui imparando, gustando. Non voleva tenere per sé questa gioia, voleva donarla, spanderla anche agli altri. E dal 25 gennaio al 2 febbraio del 1738, col permesso del vescovo, predicò la prima missione anche da Pignano, in questo paese, in provincia di Ascoli Piceno. Era proprio il periodo di carnevale, pensate, Perché in quel periodo? Lui desiderava offrire a tutti i giovani come lui un'alternativa di luce, di grazia, proprio rispetto a quella moda festaiola che allora era diciamo presente, e soprattutto quella moda pagana. E per la prima volta in quei giorni si vestì da missionario. Cosa fece? Indossò un lungo e logoro abito nero, avuto in prestito da un amico. Poi c'era un'immagine della Madonna con il bambino che si mise al collo, un crocifisso al petto, e poi in mano per bastone aveva, questa era una grazia, una canna usata dal beato Bernardo d'Offida. E partì così a piedi per fare questa predicazione, e ricordarla lui più tardi, solo col suo Dio e tutto raccolto. E la sua parola, dicevamo, toccava i cuori, inondava veramente le anime di una luce particolare, tanto da far tornare al Signore molti di quelli che lo ascoltavano. E lui capiva la preziosità di ogni anima. Gesù era morto per ognuno di noi, per ogni anima, e quindi nessuno, non voleva che nessuna anima si perdesse. Allora, per apprendere ancora meglio, per conquistare ancora di più i cuori a lode e gloria di Gesù e per la salvezza di tanti fratelli, cosa fece? Incontrò altri missionari, e qui ebbe la grande grazia, pensate, di incontrare San Leonardo da Porto Maurizio, che proprio nell'aprile del 1739 tenne nella città di Ascoli un'indimenticabile missione. Ed era, cari amici, così grande questo amore per la Madonna che una sera del settembre del 1738, aveva 21 anni, mentre si chiedeva in cuor suo come avrebbe potuto amare, onorare di più l'Immacolata Concezione, gli venne l'idea di fondare una congregazione di suore, così che dopo anche la sua morte avrebbero continuato questo suo amore e la sua devozione per la Santa Vergine. Era un amore veramente senza confini per la Madonna, un amore che dovremmo fare veramente nostro, no? Allora cosa fece? Chiese il permesso al Vescovo per fondare questa nuova congregazione, ma il Vescovo, senza scoraggiarlo, gli consigliò comunque di aspettare. Voleva anche capire, era giovane, voleva capire un attimino dove, insomma, da che parte andava. Francesco Antonio non si perse d'animo, continuò a pregare, a fare penitenza, chiese preghiere, continuò con uno zelo straordinario a parlare e evangelizzare il popolo, proprio attraverso la predicazione delle missioni, sia nell'entroterra ascolano ma anche nell'Abruzzo. E qui, con la dispensa del Papa, la ottenne, essendo lui molto giovane, non poteva essere ordinato sacerdote, il Papa gli diede la dispensa perché fosse ordinato sacerdote a 23 anni dal Vescovo di Ascoli, Tommaso Marana, era il 25 febbraio 1741. Da quel momento Francesco Antonio Marcucci si considerò tutto del Signore, affidandosi completamente alla protezione di Maria Santissima. Anzi, fece di più. Al suo nome di famiglia aggiunse quello dell'Immacolata. In effetti, fino alla morte, lui si firmò sempre Francesco Antonio Marcucci dell'Immacolata Concezione. E possiamo dire che la Santa Vergine fu la delizia del suo cuore e la scala per salire al cielo, ci viene detto. Incrementò la predicazione delle missioni al popolo e anche dei quaresimali. E la sua parola, dicevamo, proprio perché sostenuta dalla preghiera, dalla guida di Maria, ma anche dalla bontà, era una persona di grande carità, di un amore sincero verso i fratelli, questa parola toccava i cuori. Era giovane, no, dicevamo, eppure era stimato per la sua vita santa. Tanto pensate che nel 1742 Papa Benedetto XIV lo onorò con il titolo di missionario apostolico. E proprio, pensate, durante le predicazioni conobbe le sue prime discepole, le prime figlie, che avrebbero poi iniziato la congregazione delle suore più operaie dell'Immacolata Concezione. Lì una signora, una ragazza, era Tecla Relucenti. Questa ragazza era la secondogenita di una ricca e religiosa famiglia ascolana, oltretutto era anche amica d'infanzia del nostro venerabile. fu la prima ad essere invitata da lui a condividere questo grande progetto della fondazione, no, di questa congregazione. Ella però, Tecla, che aveva, era più grande di lui, aveva 13 anni più di lui, all'inizio gli oppose un rifiuto, perché diceva: questo ragazzo è giovane, un bravo ragazzo, però insomma non lo vedeva, non vedeva in quel momento, come si potrebbe dire, una sicurezza in quello che lui gli stava proponendo. Però probabilmente proprio consigliata dal suo direttore spirituale, che conosceva anche il nostro venerabile, alla fine lei acconsentì e divenne la sua prima collaboratrice, la prima madre della congregazione. E Don Marcucci si considerò sempre figlio di Tecla, sia per la stima che nutriva di lei, ma anche per la maggiore età. Questo emerge anche in una lettera del febbraio del 44, 1744, una lettera molto bella in cui con grande tenerezza scrive a madre Tecla, dice: «Sia lodato Gesù Cristo», inizia, «mia buona madre, ecco che sono di ben nuovo a domandarvi la santa benedizione e a farvi sapere che la nostra partenza è stata trasferita domani mattina di buon'ora», quindi nella casa, diciamo che sarebbe stato l'inizio di questa congregazione, «onde», dice, «vi supplico a mandarmi delle benedizioni in sin tanto che non ci rivedremo». E questo, piacendo a Gesù, sarà a Spinetoli, nel paese. «Nel frattempo, figliuola, vivete con pace, ubbidite, troncate ogni pensiero di inquietudine e di inezie, abbandonatevi tutta in Gesù e nel di Lui Sacro Cuore io vi dedico, vi consacro, vi lascio, nel cui cuore io fui, sono e sarò sempre vostro indegnissimo e premurosissimo figliuolo e anche padre vostro e vostro particolarmente nel Signore». Ecco, dicevamo prima che lui aveva chiesto al vescovo di Ascoli, Monsignor Marana, la possibilità di fondare questa congregazione. No, il vescovo gli ha detto: aspettiamo, vediamo un attimino. Ora erano passati un po' di anni, il vescovo gli diede il permesso. Era il 17 agosto del 1744, visto proprio il fervore, la serietà, la santità di questo giovane sacerdote che stava sorprendendo un po' tutti allora, gli concesse il permesso di aprire questa nuova congregazione. E le prime sorelle cominciarono proprio a ritrovarsi in casa di Tecla, che abbiamo visto poco fa, per prepararsi. Non solo, cucirono anche gli abiti erano bianchi e il manto era azzurro, perché lui diceva le suore dovevano rendere presente visivamente la Vergine Maria. In effetti, diciamo, molte le pitture o le statue della Madonna, molte hanno appunto l'abito bianco e il manto azzurro. E così, in una festa dell'Immacolata Concezione, l'8 dicembre di quello stesso anno, le prime quattro religiose furono accolte e benedette dal nostro venerabile nella chiesa dei Santi Vincenzo ed Anastasio, dove, pensate, era priore proprio uno zio di Tecla. Poi in processione, circondate da una folla di popolo commosso, fecero l'ingresso nella casa preparata per loro, dove il fondatore le attendeva per consegnare le chiavi del monastero, sempre a madre Tecla. La gente vide in quella piccola famiglia religiosa un segno dell'amore di Dio. Perché questo? Vide un segno importante dell'amore di Dio dopo lo scampato pericolo della guerra e della peste che tanto aveva preoccupato la città di Ascoli nei mesi precedenti. L'aveva schivata per poco. Quindi l'hanno vista proprio come una predilezione in questo caso, il non essere incappati in questa, sia nella peste che nella guerra. Ma tornando al nostro convento, questo nuovo convento, questa nuova creatura, madre Tecla aveva un grande compito, quello di rincuorare le sorelle, di accoglierle nel modo migliore e creare subito soprattutto uno stile di vita di grande fervore, di preghiera. E questo c'è. Infatti nei primi mesi il fondatore racconta così: «In tutto il monastero, particolarmente nelle camere, trionfava la povertà e ciascuna se ne dichiarava contenta. contenta del freddo che si soffriva, contenta del sonno che si pativa, contenta del solo cibo necessario che si aveva, contenta di tutti gli incomodi che si incontravano. La Santa Carità, dice, riscaldava tutte, la carità saziava tutte, la gloria di Dio confortava tutte, l'onore di Maria animava tutte. Il Santo Paradiso manteneva tutte ritirate, fervorose, caritatevoli, pazienti, umili, soddisfatte ed osservanti. Cosa non si fa per amore di Gesù? E queste erano le prime. A quei tempi poi sappiamo che le ragazze in genere non potevano studiare, si pensava al matrimonio a farle lavorare. Don Marcucci invece pensava il contrario, era convinto, a ragione, che la donna, dice, avesse le chiavi della famiglia e che se ben istruita avrebbe potuto rinnovare la società. Allora cosa fece? Come anticipatore preparò le suore a diventare maestre e si adattò con una pazienza amorevole alle capacità di ognuna, chiaramente. Per loro scrisse anche vari libri, il catechismo, delle dissertazioni, dei saggi brevi, tutto per spingerle in avanti a imparare con fede e con coraggio e ad essere pronte ad apprendere loro, ma soprattutto a imparare a insegnare agli altri, alle altre ragazze. E qui il 6 marzo del 1745, quindi l'anno dopo, aprì nell'istituto la scuola per le fanciulli nobili e poveri insieme. Era, pensate, la prima scuola femminile della città, la prima in assoluto. E tutte le autorità civili, religiose, i cittadini ammiravano questo servizio che le suore svolgevano, anzi ne erano fieri. Naturalmente i nemici, come sempre, non mancavano, ma questo fa parte poi delle spine che ogni santo ha sul suo cammino, no? Vuoi per gelosia, vuoi per altre cose. Comunque, una settimana dopo iniziò addirittura il catechismo nella giornata della domenica e anche per tutte le alunne e le donne della città che lo desideravano aprì le porte. E questo compito in particolare per le alunne e le donne della città lo affidò a madre Tecla, incoraggiandola a cooperare con lui proprio alla salvezza delle anime. Questa era una cosa, era un fuoco che bruciava nel cuore, la salvezza dell'anima, era la cosa più importante. Allora tutto faceva, tutta la penitenza che offriva al Signore era per questo. E qui dopo tre anni di paziente e fruttuoso insegnamento, nel settembre del 1747, lui aveva 30 anni, aprì all'interno della comunità l'Accademia dell'Immacolata Concezione. Vedete, la Madonna è sempre presente, proprio la madre vera per lui fino in fondo. Questo perché? Perché questa accademia? Voleva elevare la preparazione culturale delle suore perché potessero assolvere ancora meglio la missione dell'insegnamento nella stessa scuola. Ma questo anche per le suore converse, che non erano incaricate direttamente all'insegnamento, anche loro furono iniziate allo studio e ad una forte crescita culturale, naturalmente anche spirituale, superando le forti discriminazioni di classe che allora erano presenti. Ecco, abbiamo detto, cari amici, che lui aprì appunto l'Accademia dell'Immacolata Concezione alle donne laiche della città, virtuose, studiose, alle quali però chiese di dirigere il loro studio proprio alla gloria del mistero dell'Immacolata Concezione di Maria. Anzi, di più, di promettere con voto di credere e difendere tale mistero. Io ricordo che allora il dogma dell'Immacolata Concezione non era ancora stato proclamato, perché verrà proclamato, come sappiamo, l'8 dicembre del 1854 da Papa Pio IX, quindi lui aveva già questa chiarezza dell'Immacolata Concezione della Madonna. E era talmente chiaro che chiese appunto di tener vivo questo mistero e di difenderlo ad ogni costo, anche se allora, dicevamo, non era ancora dogma. Ma andò oltre, fermamente convinto che la preghiera e le opere buone, l'esempio, fossero il tesoro più prezioso per la congregazione, costituì una sacra lega di preghiere e di beni spirituali, pensate, con 12 monasteri femminili. Il primo gemellato fu quello delle madri francescane di Santa Chiara a Macerata e l'ultimo quello delle madri benedettine di Santa Maria delle Vergini proprio nella città di Ascoli. E il Signore benediceva questa comunità che cresceva. E allora lui, il nostro Don Francesco Antonio Marcucci, migliorò anche l'abitazione delle suore, le ampliò, perché potessero fare scuola alle fanciulle gratuitamente, ma quante più fanciulle possibili. Si rendeva conto dell'importanza e dell'insegnamento, della cultura che le ragazze avrebbero poi fatto buon uso per entrare nella società, per avere un posto nella società. Anche qui le famiglie, per esempio, delle alunne, quelle che erano povere, non potevano pagare, quindi rispondevano come potevano, magari dando frutta nei loro campi, del pane, dei generi alimentari, insomma, quello che potevano, oppure facendo dei servizi all'interno della scuola. Nel frattempo, il 7 agosto del 1751, il nostro venerabile e la comunità decisero di ristrutturare uno stabile malmesso per convertirlo in chiesa, anche questo sotto il titolo dell'Immacolata Concezione. E questa chiesa divenne luogo di culto per l'intera città di Ascoli, che si ritrovava lì a celebrare tutte le feste mariane e tutti i sabati del mese in onore della Madonna, con una predicazione fervente, infuocata del nostro Don Francesco Antonio Marcucci. E poi non solo, c'era il canto delle litanie e soprattutto, una cosa che lui amava moltissimo, come la Madonna, se non di più, era l'esposizione del Santissimo Sacramento. Quante preghiere e quante notti ha passato in preghiera davanti al Santissimo Sacramento, questa meravigliosa figura di venerabile. E proprio questa luce che Gesù gli trasfondeva nel cuore faceva sì che i discorsi da lui pronunciati ogni sabato fossero poi trascritti e pubblicati. Vi dico che non badò a critiche, ce ne furono tantissime, come dicevo prima, anche molte difficoltà, ma lui non si fermò davanti a nulla. Anzi, si adoperò con ogni mezzo per difendere la sua creatura, cioè la congregazione, curando in modo particolare la regola, cioè le costituzioni, formidabili, cari amici. Pensate che il biografo Rossi Brunori scrisse così: «Le costituzioni hanno avuto il potere di mantenere in fiore nel giardino delle suore più operaie le virtù più sode e più sublimi, per cui la santità, anche in grado eminente, è stata una dote ordinaria delle vergini lì raccolte. Nulla è stato trascurato, tutto viene spiegato con raro discernimento, dalle cose più generali, sviluppate con sana dottrina e competenza straordinaria, alle minime incertezze della coscienza più delicata». E proprio in pratica queste costituzioni su che cosa si fondano? Si fondano proprio, lui dice, sulla dolce carità verso Dio, verso i fratelli, anche verso se stesse, volersi bene, no, innanzitutto, ma tutto vissuto con spirito di gioia, di allegria, di dono anche verso gli altri. Un altro vescovo, Monsignor Odilossi, recente, in epoca recente, proprio in occasione del secondo centenario dell'approvazione della congregazione, nel 1977 scrive: «In pieno Settecento, con le sue mirabili costituzioni, Monsignor Marcucci si ribellò al fatto di vedere il monastero divenuto rifugio di anime deboli e timidi e lo trasformò in officina di anime forti, anime costanti ed eroiche». Ed è quello che fanno le figlie di questo grande apostolo ancora oggi, non si risparmiano. E lui continua allora la sua opera educativa, e accompagnava con questo la crescita e la dignità di ogni persona, e considerava il lavoro educativo, pensate, la più alta forma di carità. Per questo usava un linguaggio, possiamo dire, chiaro, sceglieva anche varie immagini per esprimere questo grande lavoro. Scriveva così: «Educare è come abbellire stelle per il firmamento». E le stelle, il firmamento era Dio, e le stelle erano le persone, i fratelli. Educare, dice, è come coltivare tenere piante, che conviene coltivarle con mano gentile, paziente e piacevole. Le mani ruvide, dice, le spezzano e perdono in darno il tempo. Conviene farsi fanciulla talora con le fanciulle per guadagnarle a Dio e farle di spirito allegro e docile. educare un tentare mille strade. Chi insegna, convien tenti mille strade, dia mille stimoli, usi mille termini, pensi mille modi, e con una chiara ed affluente e varia comunicativa si adatti, sproni, risvegli, ripeta, sempre nella virtù del Vangelo, e adopri ogni maniera che anche i sassi, per così dire, ricevano bell'impressione. Così, cari amici, questa bellissima via costellata, sì, da tanti sacrifici, ma anche da tante gioie, con paziente, faticoso lavoro educativo e formativo nell'istituto, anche nella chiesa locale, il nostro Don Marcucci venne nominato vescovo di Montalto, questo nel maggio del 1770. Questa notizia gli giunse in attesa, ma lo turbò moltissimo, perché non se ne sentiva affatto degno, in modo sincero, a tal punto chiese al Papa che c'era allora, Papa Clemente XIV, che se ricordate lui la conosceva perché era ad Ascoli a predicare, chiese al Papa la rinuncia, ma il Papa confermò l'elezione. Allora accettò, promettendo al Santo Padre un'umile obbedienza anche a costo della sua vita. E qui Clemente XIV lo accolse, come era allora uso a Roma, con gioia, e gli fece conoscere un suo amico e un altro grande santo. Questo santo era San Paolo della Croce. E San Paolo della Croce lo incoraggiò nell'incarico che aveva accettato e gli preannunciò che la sua predicazione avrebbe fatto molto bene, ma lui stesso sarebbe diventato un santo. Fu consacrato vescovo a Roma il 15 agosto 1770, aveva 53 anni, e affidò questo suo nuovo, ma anche difficile ministero, sempre all'intercessione della Madre meravigliosa per eccellenza, a Maria Santissima. E proprio il 15 settembre entrò nella sua diocesi, accolto da tutti con grande entusiasmo, lo conoscevano, lo stimavano, gli volevano bene. Allora pensate, la diocesi di Montalto Marche, in provincia di Ascoli Piceno, era, per darvi un'idea, distribuita su una superficie che parte era nelle Marche, quindi sotto il governo dello Stato Pontificio, parte invece era in Abruzzo, sotto il governo del Re di Napoli. Contava 36 parrocchie, c'erano circa 13.000 abitanti, con 143 chiese, la bellezza di 245 sacerdoti e anche 3 monasteri di monache clarisse. E lui cominciò subito, senza perdere tempo, a svolgere il ministero pastorale con un impegno unico e di grande esemplarità. Lui voleva a tutti i costi trasformare la sua diocesi in un giardino spirituale. Cosa fece? Andò poi al pratico, riunì innanzitutto i confratelli sacerdoti nel palazzo vescovile e predicò loro subito gli esercizi spirituali. Organizzò poi l'attività pastorale insieme anche la loro formazione, una formazione soda, fatta di fede vera, di grande carità, di dono per gli altri, e trasmise loro il suo metodo educativo. Si impegnò a trovare tutti i modi per rendere migliore una persona. Insomma, c'erano anche diversi sacerdoti che non erano il massimo, quindi ci vuole molta pazienza. Ma lui non poggiava sulla sua cultura quello che poteva rendere migliore una persona, confidò sempre totalmente nell'azione della grazia, quindi tantissima preghiera, preghiera vera. E nella primavera poi del 1772 iniziò anche la visita pastorale, raggiungendo tutte le parrocchie della diocesi. E qui, ragazzi, quando nevicava c'era acqua, vento, a piedi, col mulo o con l'asino, quindi vuol dire allora non c'erano né macchine né altro, quindi andava qualunque fosse il tempo. Il suo desiderio bruciante nel cuore era quello, dicevamo, di salvare anime, e animò tantissimi fedeli a seguire, soprattutto a mettere in pratica il Vangelo. Riorganizzò tante realtà abbandonate come le confraternite. Aveva scolpite nel profondo del cuore soprattutto le parole che San Paolo della Croce gli aveva detto a Roma. Gli aveva detto così: «La predicazione di vostra bocca butterà fuoco e la vostra diocesi la santificherete». E anche lui era era un esempio, perché poi in effetti nella sua vita di ogni giorno, anche se era vescovo, continuò ad essere semplice, povero, parco nel cibo, modestissimo negli abiti, anche la sua casa era mobiliata con 4 mobili, era un vero vescovo francescano, possiamo dire. E poi nel 1771 scrisse il regolamento di vita, qui individuava i doveri verso Dio, verso se stesso e anche verso il prossimo. E il cardinale Giuseppe Petrocchi più tardi affermerà questo, dirà: questo santo vescovo, riferito al nostro venerabile, vera gloria della Chiesa ascolana, appartiene alla categoria dei maestri testimoni, cioè alla schiera di quelli che hanno insegnato quello che hanno vissuto e vissuto ciò che hanno insegnato. E questo era l'esempio più vero per trasformare i cuori. Nel frattempo, però, mentre le forze fisiche di Papa Clemente XIV declinavano, il vicegerente, suo diretto collaboratore, quindi il segretario di Stato, rinunciava alla carica. Il problema è che proprio allora Roma stava preparandosi all'anno santo del 1775, quindi ad accogliere i pellegrini di tutto il mondo. Ebbene, il Papa vide proprio nel nostro santo vescovo la persona più capace a ricoprirne la carica e lo nominò suo vicegerente. Lui aveva 56 anni, no? Ma in quei giorni non sapeva di questa cosa, stava preparando il sinodo della diocesi e gli giunse la notizia nel gennaio del 1774, notizia improvvisa e inattesa che gli rinnovò lo sconcerto fisico e morale che aveva già sperimentato per l'elezione a vescovo. Rispose subito al Papa, ma gli rispose proprio con una supplica, fatta con tutto il cuore, di rinunciare. Ma neanche questa volta questa supplica fu accolta. E allora lui, con la generosità di sempre, si mise al servizio del Papa. Naturalmente, il 13 febbraio, salutato dalla folla commossa della sua diocesi, accompagnato per un buon tratto di strada, giunse a Roma e cominciò a guidare con amore paterno e saggio la diocesi che aveva lasciato, anche la sua congregazione delle Pie Operaie dell'Immacolata Concezione, pur essendo a Roma, la governava attraverso un fittissimo rapporto epistolare, quindi la sua presenza non venne mai a mancare di fondo in quella diocesi, nella sua diocesi, che lui amava profondamente. Qui, proprio nell'autunno di quell'anno, del 74, a gennaio era andato a Roma, nell'autunno torna per assolvere alcune incombenze di carattere pratico, mentre era lì fu raggiunto dalla notizia della morte del Papa, di Clemente XIV, che era avvenuto il 22 settembre. Cosa fece? Ripartì subito per Roma, dove giunse a tappe forzate la mattina del 4 ottobre. Alcuni giorni dopo venne eletto Papa Pio VI, venne eletto il 15 febbraio del 75, e Pio VI lo confermò in tutti gli incarichi di fiducia che aveva. Anzi, alcuni anni dopo, proprio a conferma della grande stima che aveva in lui, lo scelse per accompagnarlo a Vienna, a trattare personalmente con l'imperatore Giuseppe II, imperatore che stava conducendo una politica veramente ostile contro la Chiesa. E il nostro santo vescovo, sebbene ormai era stanco, malato, accettò questa delicata missione diplomatica e fu saggio consigliere, confessore anche del Papa, si mosse con grande prudenza, consapevole anche del clima scettico, ma anche adulatorio della corte imperiale. Allora era così. Sul piano diplomatico i risultati della visita non furono molto abbondanti, ma su quello pastorale, cari amici, furono enormi. Infatti suscitò un grande entusiasmo fra tutte le popolazioni la visita del Papa, e il Papa incontrò tantissime persone, confermandoli tutti nella fede, anche in una fiducia rinnovata nella Chiesa. Questa fa la presenza del Papa. Dicevamo prima che, nonostante i tanti faticosi impegni, Monsignor Marcucci non rinunciò mai alla cura pastorale, alla formazione, convintissimo che il peggior male dell'epoca fosse l'ignoranza, ma non soltanto allora, io direi anche oggi. soprattutto quella religiosa, perché molti non conoscono. E nei 12 anni del periodo romano guidò anche l'Accademia Scritturale dell'Immacolata Concezione, alla quale partecipavano illustri studiosi e anche molti teologi. E offrì una risposta a quelli che erano gli attacchi allora del pensiero libertino anche materialista dell'illuminismo di allora, ma anche alle correnti del giansenismo. Collaborò soprattutto all'elaborazione di un pensiero cristiano che vedeva nella Chiesa anche nuovi protagonisti, anche qui è stato un grande anticipatore. Chi erano questi nuovi protagonisti che lui vedeva, ma che molti allora non capivano? Era proprio quello che lui vedeva, cioè un aiuto per le donne che potevano aiutare la Chiesa e i laici in generale, no? Che è quello che c'è da alcuni decenni. E fu presidente anche della Confraternita della Dottrina della Fede, che aveva lo scopo, come sappiamo, di curare l'insegnamento del catechismo ai fanciulli in tutte le chiese di Roma, e qui proprio per favorirne la diffusione, perché potessero avere un'istruzione religiosa, era fondamentale, no? Come lo è oggi. Cosa fece? Fece stampare le istruzioni in forma di dialogo per i fanciulli e per le fanciulle cristiane, queste che dovevano essere ammesse alla Santa Confessione e alla Comunione, anzi ne raccomandò l'uso a tutti i parroci di Roma e a tutti i maestri di scuola. E anche a Roma il suo cuore abbracciava tutti. Collaborò con tante congregazioni religiose, conobbe i redentoristi, ma in particolare conobbe un altro grande santo, Sant'Alfonso Maria de Liguori, sappiamo grandissimo devoto di Maria, quindi erano proprio fratelli anche in questo grande amore per la Madonna. E nel settembre del 1785 si ritagliò un po' di tempo anche dagli impegni nella città di Roma per visitare la diocesi di Roma, di cui lui era comunque, aveva una responsabilità pastorale, diocesi che trovò particolarmente bisognosa di cure. Intanto però si erano anche aggravate le sue condizioni di salute, era praticamente un vulcano, non si fermava mai, e proprio questi due motivi lo fecero decidere a chiedere questa volta al Papa qualcosa che avrebbe voluto fare da tempo, cioè la rinuncia alla vicegerenza. E Pio VI, dispiaciutissimo di questa cosa, però si rese conto che non poteva dire di no, era molto dispiaciuto di perdere un collaboratore prezioso come lui, accettò a malincuore le sue dimissioni. Cosa fece allora il nostro venerabile? Tornò a risiedere ad Ascoli e tornò a risiedere in un'ala del convento della congregazione delle suore più operaie dell'Immacolata, che si era fatta preparare appositamente. Da lì continuò a guidare la sua amata diocesi e seguì con scrupolo i suoi impegni pastorali, pensate, fino all'estremo delle sue forze. Non c'era malattia, non c'era paralisi a volte che gli prendeva, non c'era niente. Lui, fin quando poteva, fino all'ultimo momento, era sempre in piedi per amore di Gesù e della Madonna. E durante proprio l'ultimo decennio ebbe modo anche di seguire la ristrutturazione, anche l'ampliamento della loro casa madre. Perché? Perché c'erano anche tante nuove novizie, tante giovani che volevano entrare sull'esempio suo, ma anche delle sue figlie spirituali, delle tante suore che erano guidate da madre Tecla. E seguì, oltre all'ampliamento della casa madre, anche la costruzione, cioè più che la costruzione era la definitiva, come si potrebbe dire, ricostruzione, finitura della Chiesa dell'Immacolata, e si concentrò ancora sulla cura pedagogica e spirituale delle sue suore, delle educande, ma anche delle alunne che erano all'interno della scuola. La sua attenzione era proprio per tutte, quindi proprio a 360 gradi, abbracciava e voleva bene a tutte, dalle maestre alle più piccole bambine, per le quali aveva parole scherzose di lode, di dolce e paziente correzione. E con animo paterno, perché era veramente un padre, si preoccupava anche della salute fisica, raccomandava la corretta alimentazione e riposo, se era possibile la villeggiatura. E proprio il ricco epistolario documenta il servizio pieno di amore e di carità che il nostro venerabile svolse come direttore spirituale, ma anche come grande confessore, eminente consigliero e maestro, un maestro vero. In quel periodo poi era venuto a conoscenza con grande dolore delle atroci azioni, anche delle dissacranti azioni che la rivoluzione stava compiendo in Francia, la rivoluzione francese. Proprio in quel periodo Papa Pio VI aveva invitato tutti i vescovi dello Stato Pontificio ad accogliere tutti i consacrati, soprattutto le suore francesi, sfuggite alla persecuzione. E lui stesso, il 19 dicembre del 1792, ne ricevette due tra le più operaie dell'Immacolata Concezione. Le ricevette con grande affetto. E tra queste due, Suor Julienne era quella che era sopravvissuta ad una aggressione dei rivoluzionari che erano penetrati nel loro monastero in Provenza e nella quale erano state martirizzate 14 sue consorelle. Lui non si fermò qui, cari amici, era ben consapevole, come tante altre anime sante, del pericolo che le idee della rivoluzione avrebbero provocato tra i popoli. E qualche mese dopo l'arrivo di queste suore, scrisse il Ragionamento Cattolico. C'è un'opera dove dimostrava che sulle basi dell'ateismo di Voltaire non si poteva costituire nessuna uguaglianza, nessuna libertà e nessuna fraternità, no? Erano le tre parole della rivoluzione francese, no? Anzi, supplicava la Divina Misericordia per intercessione di Maria Immacolata perché concedesse ai cristiani, in modo particolare in Francia, la grazia di restare fedeli a Dio fino alla morte. E il 13 settembre 1795, festa del nome di Maria, benedisse la Chiesa dell'Immacolata, attigua proprio alla casa madre, perché fosse per tutti un luogo di preghiera, di rifugio e di grandi grazie, e considerò un miracolo della Madonna l'averla potuto ultimare in situazioni tanto difficili, si vivevano periodi veramente incredibili, e questo, diceva lui, costituiva un pegno della grande protezione di Maria Santissima. E nel 1796, quindi l'anno dopo, Napoleone invase l'Italia settentrionale, poi l'anno seguente invase anche lo Stato Pontificio. I francesi saccheggiarono anche il santuario di Loreto, profanando molte chiese nel territorio. Lui, proprio Monsignor Marcucci, questo santo vescovo, organizzò tridui di preghiere con il popolo per riparare i tanti sacrilegi e le tante offese e riuscì a salvare dal rastrellamento dei francesi gli argenti della cattedrale di Montalto e per due volte anche il famoso reliquiario di Sisto V. Poi, in occasione della Pasqua del 1797, tornò ancora in diocesi per celebrare con i suoi fedeli la gioia della risurrezione di Gesù, ma fu l'ultima volta. Infatti, il 29 aprile dello stesso anno ebbe un nuovo attacco di paralisi e fu portato naturalmente subito ad Ascoli, nella sede della congregazione, e qui, alcuni giorni dopo, il 7 maggio, mentre ascoltava un passo di Isaia, fu nuovamente colpito da un attacco gravissimo che gli impedì di parlare, pensate, pur comprendendo bene tutto e conservando una memoria viva e tenace. Era, cari amici, per lui una prova grande, con la quale il Signore voleva raffinarlo come oro nel crogiolo. E sopportò così, questo santo è un venerabile, ma io dico un santo, perché per 14 mesi offrì con amore unico e meraviglioso a Gesù e alla Madonna questa dolorosa infermità, che era intervallata da lievi e brevi riprese. Nelle giornate più belle, quando riusciva, chiedeva di uscire e si recava a pregare accompagnato in qualche chiesa della città. Purtroppo il 21 giugno del 1798 fu colpito da un'altra e più grave paresi che gli fece, ci fu una penosa convulsione e addirittura ci fu un soffocamento. E qui il vescovo di Ascoli, un vescovo che era in fuga e si trovava ad Ascoli, un vescovo agostiniano, era Monsignor Giuseppe Menocchio, fuggiva dai francesi, quindi questo vescovo era ad Ascoli, era della diocesi di Bona, lui stesso andò per amministrargli il viatico. E arriviamo così al 10 luglio. Colpito da una febbre altissima, consapevole ormai, aveva capito che la morte era vicina, il nostro santo vescovo volle accanto a sé le sue care suore. Le benedisse una ad una, pensando anche a quelle future che sarebbero entrate nella congregazione, e saranno molte, e chiese l'aiuto delle loro preghiere. Benedisse anche tutte le loro alunne, i collaboratori e anche i difensori della sua prediletta congregazione e tutti i suoi diocesani, ad ognuno una buona parola, una parola di conforto, di pace e di consolazione. Avrebbe pregato per loro e promise di non cessare mai da quel momento in poi di ricordarli, di pregare per la loro salvezza e per la prosperità di tutti. E arrivò così alle 6 di giovedì mattina del 12 luglio 1798, quando la sua anima meravigliosa volò verso Dio. Aveva 80 anni.